C'era una volta un continente molto povero che si chiamava proprio Continente Povero. Nella casa più povera, della strada più povera, del quartiere più povero, della città più povera, della regione più povera, del continente povero, viveva un pescatore con la moglie e i 7 figli. Erano molto poveri. Siamo molto poveri. Come farò? Il pescatore era preoccupato per la sorte dei suoi figli e non riusciva a darsi pace. In particolare temeva per il più piccolo dei 7, che era molto diverso dai fratelli. Portava i capelli lunghi, come una ragazza, e aveva un carattere mite e riflessivo. Ma non sarà mica uno di quelli. Si chiamava Pollicino perché passava tutto il tempo a digitare col pollice sul suo telefonino. Bravo! E le bollette chi le paga? Non ti preoccupare, padre. Rispondeva sempre Pollicino. Tu non paghi un bel niente. Ho clonato un telefonino della terra dei ricchi e la bolletta la paga qualcuno lassù. Anche perché tu non potresti. Siamo molto poveri. Lo so. Potevi pensarci prima di fare 7 figli. Ma ormai... Una notte, mentre i figli dormivano, il pescatore si lamentò per l'ennesima volta con la moglie. Siamo molto poveri. Ma non sai dire altro. Moglie mia, se va avanti di questo passo, non ce la farò a mantenere tutta la famiglia. Siamo molto poveri. Aveva ragione mia madre. Dovevo sposare il figlio del macellaio. Lo so, ma ormai, che cosa facciamo? Io un'idea ce l'avrei. Tutti i giorni dalla spiaggia partono i barconi diretti verso la terra dei ricchi, lo sai, no? Lo so bene. Domani mattina mettiamo i nostri figli su un barcone e non ci pensiamo più. Taci, pazza. Lo sai benissimo che chi emigra nella terra dei ricchi finisce nella pancia di Re Orco Primo. Non abbiamo altra scelta, marito. Dobbiamo sbarazzarci di loro. Shh, parla piano. Non vorrei mica che i nostri figli ti sentano. Figurati, dormono beati e continueranno fino a domattina. Per cena gli ho cucinato un pentolone di paglia, fango e sassi. Ma sotto il tavolo, dove si era infilato di nascosto, Pollicino era sveglio come un grillo e aveva sentito tutto. Il mattino dopo, i genitori proposero ai figli di trascorrere una giornata in mare. Una bella gita in battello, tutti insieme. Che bello, la gita in battello! Gridarono i bambini in coro. Tutti, tranne Pollicino. Lui conosceva la triste verità. Qui ci vuole un'idea delle mie. Devo cercare su internet. Pensò Pollicino e si mise a digitare furiosamente col pollice alla ricerca della lista completa dei sistemi pratici per ritrovare la via di casa dopo essere stati abbandonati dai genitori poveri. Cerca... Cerca, cerca, mi piace, cerca, non mi piace più. Pollicino, basta con quel telefonino. Dobbiamo sbrigarci, altrimenti il battello parte senza di noi. Il battello, o meglio, il barcone, era un vecchio peschereccio che aveva visto tempi migliori. Già prima di partire sembrava mezzo affondato per il troppo carico. Tutti in piedi, stipati come oggetti in uno sgabuzzino, centinaia di donne, uomini, vecchi e bambini aspettavano di partire per la terra dei ricchi. Forza bambini, salite a bordo, coraggio, tutti in fila, tenetevi per mano. Sì mamma. Visto che bella la nave, sarà una gita indimenticabile. Che bello, la gita in battello. Mamma, che cosa c'è? La barca mi sembra troppo piena. Forse ci conviene aspettare il prossimo giro. Non possiamo rimandare, ormai abbiamo prenotato. E adesso mi raccomando, aspettate qui e non muovetevi. Sì, mamma. Vostro padre e io andiamo in farmacia a comprare le medicine contro il mal di mare. E torniamo subito. Cosa dici? Moglie, io sono un pescatore e non ho mai sofferto. Tu lo soffri il mal di mare? E come se lo soffri? E sei pure cretino. Lo so. Dovevo sposare il figlio del falegname. Ma ormai... La madre diede un ultimo fugace sguardo ai suoi figli e si allontanò rapidamente, senza voltarsi. I fratelli aspettarono e aspettarono. Aspettiamo, aspettiamo. Aspettarono e aspettarono. Aspettiamo, aspettiamo. Ma i genitori non arrivavano. Ma non arrivano. Non arrivarono. Quando la barca mollò gli ormeggi e lasciò la costa, avventurandosi traballante nel mare aperto, i fratelli cominciarono ad avere qualche sospetto. Che bello, la gita in battello! Ma la mamma e papà, quanto ci mettono a tornare? A quel punto, Pollicino decise di rivelare ai fratelli la tragica situazione in cui si trovavano. Fratelli, mi dispiace, ma credo di dovervi dare una brutta notizia. La mamma e il papà non torneranno affatto. Ci hanno abbandonati su questo barcone diretto verso la terra dei ricchi. Non è vero, non è vero. Hanno detto di aspettare. Sì, ma... E noi stiamo aspettando. Tra poco li vedremo tornare. Risposero subito i fratelli in coro. Ma, fratelli, non vedete che la barca è già partita e che loro sono rimasti a terra? I fratelli si guardarono intorno e videro che Pollicino aveva ragione. La costa era ormai lontanissima e all'orizzonte soltanto il mare. Ma allora finiremo mangiati dal reorco primo? No, fratelli, non disperate. Ho trovato il modo per tornare a casa. E come hai fatto? Ho cercato su internet. Su internet c'è tutto. Che bello, un genio per fratello. Pollicino si frugò nelle tasche dei pantaloni e ne tirò fuori, tutto orgoglioso, una manciata di sassolini che aveva raccolto sulla strada verso il porto. Avete capito? Man mano che ci allontaneremo dalla costa, butterò un sassolino in mare, così potremo ritrovare la via di casa. Ecco. E meno male che era il più intelligente. Buonasera. Credere, obbedire, pagare. Apriamo questa edizione di 7 Media Network News con una notizia che non è nemmeno una notizia, perché si tratta dell'ennesimo sbarco di straccioni provenienti dal continente povero. Un altro barcone stracarico di schifosi puzzolenti è infatti arrivato poche ore fa sulle coste del paese. Dopo le consuete procedure burocratiche per determinare lo status dei nuovi arrivati come profughi o clandestini, i pezzenti verranno parcheggiati al più vicino CPT, in attesa di essere rispediti al mittente con tanti saluti. Ma ora cambiamo argomento e passiamo allo sport. Michele? Grazie, Linda. Il campionato di falso in bilancio è stato sospeso dall'Authority per eccesso di bancarotta fraudolenta. I manager coinvolti per ora si trincerano dietro un eloquente muro di silenzio che per ovvi motivi non possiamo trasmettervi. Per lo sport è tutto a te, Linda. Grazie, Michele. Questo è tutto per il momento, a risentirci per la prossima edizione di 7 Media Network News. E ricordate, credere, obbedire, pagare. Pollicino e i suoi fratelli, come tutti gli altri poveri appena arrivati, furono subito deportati al CPT. Il centro purgatoriale transitorio era un edificio sinistro, male illuminato, senza insegne, sul quale incombeva una strana struttura metallica che assomigliava in modo inquietante a un gigantesco tritacarne. Credere, obbedire, pagare. Benvenuti nella terra dei ricchi. Sono la responsabile accoglienza di questo centro purgatoriale transitorio, dove sarete ospitati, accuditi e sfamati, grazie alla generosità di Sua Maestà Reorco I. E mentre i fratelli si lasciavano incantare dalle dolci parole della hostess, Pollicino, incuriosito, scattò una fotografia alla strana struttura metallica col suo telefonino e la diffuse immediatamente in tutto il mondo con la domanda: Ehi, amici! Secondo voi questo che cosa diavolo è? Invia, inoltre, condividi. Il viaggio è stato lungo, avrete sicuramente appetito. Arrivate al momento giusto, perché tra poco è ora di cena. I fratelli avevano una gran fame e accolsero la notizia con entusiasmo. Che bello, che bello! Niente più fango, palle e sassi! Diventeremo finalmente belli grassi! Proprio belli grassi! La prima cosa che dovrete fare è scegliere se dichiararvi profughi o clandestini. Perché il menù cambia a seconda che siate profughi o clandestini. Per esempio, se volete un menù un po' più sfizioso, forse vi conviene dichiararvi profughi. Sfizioso, sfizioso, il menù sfizioso. Allora, come profughi abbiamo tre opzioni. Opzione 1, panino piccolo, bibita media, patatine grandi. Opzione 2, panino grande, bibita media, patatine piccole. Opzione 3, panino medio, bibita grande o piccola scelta, patatine piccole, medio, grandi a scelta, anche se sarebbe più giusto che fossero medie. Attenti però, che tutti e tre i menù hanno la variante multisalsa. La variante multisalsa? Sì, la variante multisalsa, che comprende 16 tipi di salse diverse, tutte combinabili tra loro in milioni e milioni e milioni di possibilità. Se però preferite una sola salsa, allora vi conviene dichiararvi clandestini, perché nel menù clandestini c'è sì un ventaglio di delicatissimi piatti a base di pesce, ma come salsa c'è soltanto la senape. Allora, profughi o clandestini? Clandestini. Mentre i fratelli discutevano animatamente se scegliere lo status di profughi o di clandestini, Pollicino sentì vibrare il telefonino nelle tasche dei pantaloni. Il popolo di Internet aveva subito trovato informazioni sulla misteriosa struttura metallica del CPT. Ma si tratta del gigantesco tritacarne dove vengono gettati tutti i poveri che arrivano con i barconi. Altro che scegliere il menù. Se non mi viene in mente qualche cosa, saremo noi a essere scelti come menù. Allora ragazzi, ricapitoliamo. Sono 4 clandestini e 3 profughi, di cui 2 opzione 3 con patatine piccole e 1 opzione 1 con bibita media, patatine grandi e panino piccolo. Ma senza salsa? Eh no, senza salsa non si può. Allora menù clandestino con bibita media e patatine piccole. I ricchi abitanti del regno di Re Orco ignoravano molte cose sul loro sovrano. Le uniche informazioni erano infatti diramate continuamente dal tentacolare network dei 7 media, di proprietà del re. Re Orco controllava il network grazie a un telecomando che portava sempre con sé. Il network comprendeva 7 mezzi di comunicazione. Medium numero 1, la televisione. Sapete che differenza passa tra i poveri e le gomme della macchina? Le gomme, quando gli metti le catene, non si lamentano. Medium numero 2, la radio. Credere! Obbedire! E soprattutto pagare! E questo era Re Orco Primo con la sua bellissima canzone Credere, Obbedire e Pagare, come sempre in testa a tutte le classifiche del regno. E ora ascoltiamo come sempre, ma senza salsa, da sempre al secondo posto di tutte le classifiche del regno, sempre di Re Orco Primo. Vai con la musica, sempre! Ma senza salsa! Medium numero 3, la stampa. Ultime notizie! Re Orco Primo doma un incendio, evita una catastrofe nucleare e moltiplica pani e pesce a una festa di matrimonio! Tutti pettegolezzi in cronaca! Medium numero 4, la telefonia. 7 media mobile. La persona che state cercando potrebbe essere morta. Medium numero 5, Internet. You got mail. Hai il pene corto? Allungalo. Con la crema King Ogre puoi raggiungere dimensioni da orco in sole 7 ore. Oh mio Dio, ma è gigantesco! Grazie King Ogre. Medium numero 6, la cartellonistica stradale. Guarda lì, eh? Credere, obbedire, pagare. Hanno scritto obbedire con una B. Dove? Lì. Lì dove? Occhio! Cosa? Frena! Medium numero 7, la persuasione occulta. Intanto, nel centro purgatoriale transitorio, i fratelli di Pollicino stavano ancora litigando sul menù da scegliere. Proprio in quel momento, il portone si spalancò e apparve nella penombra l'imponente figura di Re Orco Primo. Re Orco Primo? Senti, senti che buon profumino. Sarà un profugo o un clandestino? Bene, bene. Vedo che siete in tanti, siete in sette. E ditemi, voi siete profughi o clandestini? Perché vi spiego, stasera avrei voglia di mangiarmi un profugo o un clandestino. Magari tutti e due insieme. Ma voi siete profughi o clandestini? Non abbiamo ancora deciso quale menù scegliere, sire. C'è la variante salsa che ci inibisce. Silenzio! Dove sono i vostri genitori? Disse il re affamato. Sono rimasti a casa. Ci hanno messi su un barcone perché siamo molto poveri. Siamo molto poveri. Cretino, sei un cretino. Lo so. Perché non ho sposato il figlio del panettiere? Ma ormai... Non siamo né profughi né clandestini. Siamo solo bambini, sire. Abbia pietà di noi. Dissero i fratelli, cercando di persuadere il re a cambiare idea. Ah, peccato che non siate femmine. Un posto da stagista non si nega a nessuno. Invece siete sette maschietti e quindi l'unica cosa che posso fare è mangiarvi tutti e sette. Tutti e sei, vorrà dire, disse Pollicino facendosi avanti. I suoi lunghi capelli disegnavano spirali impazzite nell'aria e a guardarlo nella penombra tutti avrebbero detto che si trattava di una ragazza. E tu chi sei? Chiese a Re Orco subito incuriosito. Mi chiamo Polly e sono una ragazza. Il re squadrò Pollicino da capo a piedi e poi di nuovo dai piedi al capo. In effetti era una ragazza. Eppure carina. Non perdiamo tempo. Ti nomino mia stagista personale e ti voglio assolutamente con me sul palco domani durante il discorso a Network Unificati che terrò per festeggiare i miei 150 anni. Almeno così non diranno più che discrimino i poveri e nemmeno le povere. Portate Polly a palazzo, la raggiungerò dopo essermi mangiato questi sei teneri bocconcini. Sire, loro sono i miei fratelli. La prego, li risparmi. Disse Pollicino. Risparmiarli? Va bene. Li risparmierò nel senso che non li mangerò. Per ora. Li mangerò domani, dopo il discorso. Prima, io ho fame. Adesso che cosa mangio? Sire, se posso permettermi. Dal continente povero è appena arrivata una squadra di basket a chiedere asilo politico. Se gradisce, le possiamo preparare una bella tartare fresca fresca. Brava, con le uova sopra. Naturalmente. Sì, ma senza salsa. Cosa? Non si potrebbe, sire. Ma per lei facciamo volentierissimo un'eccezione. Ma non è giusto! Perché lui sì e noi no? Zitti! Perché io sono il re e voi siete solo ragù. E così Pollicino Polly venne accompagnato a palazzo e sistemato nella stanzetta accanto a quella del re. A notte fonda Re Orco fece ritorno sazio e soddisfatto. Non male la squadra di basket. Peccato che il pivot continui a tornarmi su. Polly. Polly, dove sei? Polly. Non appena toccato il letto, si addormentò di botto. Cominciò a russare. Le pareti tremavano come scosse da un terremoto. Nella stanzetta accanto Pollicino prese coraggio, sgusciò fuori dalle lenzuola e si intrufolò nella camera di Re Orco. Legato al collo del re, risplendeva il magico telecomando che controllava il network dei sette media. Devo riuscire a prenderlo. Pollicino si avvicinò con cautela. Sire? Sire? Sire! Bene. Dorme come un sasso. Pollicino sfilò il telecomando dal collo del re e subito prese a digitare col pollice per modificarne le funzioni. Dunque dovrebbe essere così: modifica funzione, enter, persuasione occulta, enter, così, così, così, anzi, così. Dormi bene, Re Orco. Domani festeggeremo il tuo compleanno nel migliore dei modi. Buonasera. Credere, obbedire, pagare. Stiamo trasmettendo in diretta a Network Unificati dalla capitale della Terra dei Ricchi i festeggiamenti per il compleanno di Re Orco I, il più ricco tra i ricchi. Ma colleghiamoci subito con la piazza, Michele? Sì, grazie Linda, buonasera a tutti. La folla che riempie la piazza della capitale aspetta con trepidazione l'arrivo del sovrano, che oggi celebra i suoi 150 anni di età. Chi non ha potuto essere qui di persona sta sicuramente seguendo l'avvenimento da casa, grazie al generoso lavoro di tutto il personale del network e dei sette media. Prima del tradizionale discorso di Re Orco sembra che ci sarà una sorpresa fuori programma. Una sorpresa, Michele? Sì, una sorpresa. Ancora non sappiamo di che cosa si tratta. Ma ecco, sul palco si nota un gran movimento. È lui, c'è lui, Michele. Sì, è lui, ma attenzione, non è solo. Che cosa vedi, Michele? Dici cosa vedi. Sì, Linda, non è solo. Purtroppo le guardie del corpo schierate in protezione del re non ci permettono di capire chi sta accompagnando il re sul palco. Ma non puoi avvicinarti di più, Michele, che cosa vedi? Ma sì, Linda, un attimo, ecco, adesso vediamo. Si tratta di una giovane ragazza dai lunghi capelli. Una ragazza? Chi è, Michele, chi è? Linda, hai rotto il cazzo! Aspettate, sentiamo, la ragazza sta per dire qualcosa. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, Re Orco Primo, tanti auguri a te. Grazie, cara. Se non fossi così carina, ti mangerei qui sui due piedi. Cari, carissimi sudditi, sono commosso per il calore che mi dimostrate ogni giorno di più. A volte mi guardo allo specchio, mi vedo un po' sciupato e penso, sono troppo vecchio per continuare a occuparmi del paese. Poi però vedo che la gente mi ama. La gente mi ama come il primo giorno. Mi ferma per strada e mi applaude. E ovunque è un tripudio di elogi nei miei confronti. Significa che, evidentemente, non è ancora arrivato il tempo di appendere il telecomando al chiodo. Ma ora, cari sudditi, passiamo alle cose serie, disse Re Orco, e come sempre faceva quando voleva penetrare nelle menti dei suoi sudditi, premette il tasto della persuasione occulta. Il feroce sovrano non poteva sapere che la notte prima Pollicino aveva modificato il telecomando in modo che al tasto persuasione occulta corrispondesse la funzione verità nuda e cruda. Il re avrebbe detto esattamente quello che pensava. Popolo di ignoranti e buoi! Guardatevi! Siete qui ad applaudirmi solo perché avete paura! Io vi controllo in tutto quello che fate grazie a questo mio telecomando! Siete ricchi, è vero! Ma siete ricchi solo perché esistono i poveri! E se non ci fossi io, che mangio tutti i poveri che mi capitano a tiro, voi non sareste più ricchi! Anzi, a forza di parlare di poveri, mi è venuto un po' di fame. Mi mangerei volentieri un clandestino o un profugo. Magari un clandestino e un profugo insieme, ma senza salsa! Mi faccia morire! A quelle parole, qualcuno tra la folla cominciò a chiedersi stupito. In pochi istanti, la massa di sudditi, poco prima adoranti, esplose in un unico urlo di ribellione. La verità, udita per la prima volta, innescò nella popolazione il coraggio che era sempre mancato. La storia di Re Orco I finì quel giorno. Pollicino, dopo aver rivelato a tutti di non essere una ragazza e di aver manomesso con l'inganno il magico telecomando del re, sono stato io, fu subito dichiarato nuovo re della terra dei ricchi. I suoi fratelli, trovati a palazzo già pronti per essere cotti alla piastra, vennero liberati e nominati ambasciatori del regno. Che bello! Un re come fratello! Re Pollicino volle che gli abitanti del continente povero, emigrati a cercare fortuna nella terra dei ricchi, non fossero più discriminati, né tantomeno mangiati. Venne cancellata la differenza tra clandestini e profughi e la manodopera in arrivo dal continente povero contribuì ad arricchire ulteriormente la terra dei ricchi. In pratica, vissero tutti felici e contenti. Piaciuta la fiaba? Sì? Peccato che sia finita allora. Ma vabbè, tranquilli. La fiaba è finita, ma la vita continua. La vita di tutti i giorni è molto diversa dalle fiabe e, meno male, è la migliore vita possibile. Dico bene? Siete pur sempre i fortunati abitanti della terra dei ricchi. Ma l'importante è rimanere ricchi, perché basta un attimo per diventare poveri. Quindi fate i bravi, continuate a credere, continuate a obbedire e continuate a pagare. E sorridete anche un po', no? Bene, anche per oggi vi devo lasciare, ma tornerò in onda, non temete. Un saluto dal vostro carissimo e amatissimo Re Orco I. E mi raccomando, restate sintonizzati sul network dei Sette Media. Tanto non potete fare altrimenti. Vai con la sigla! Pollicino, una fiaba di Cappa e Drago. Con Andrea Luini, Silvia Giulia Mendola, Linda Montechiani e Alberto Onofrietti. Registrato e mixato da Guido Gildo Bertolotti. Suono, musica e regia di Gaetano Cappa. Una produzione Radio 24 e Istituto Barlumen. Senza salsa! Ma senza salsa! Ma senza salsa! Senza salsa! Senza salsa! Senza salsa non si può. Salsa. Ma senza salsa. Senza salsa.